Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Lo sguardo di familiari e amici resta incollato da ore a questo schermo dell'aeroporto di Pechino. Il volo MH370 della Malaysian Airlines è indicato in rosso, orario previsto di arrivo delayed, volo in ritardo, ma sono troppe ormai le ore di attesa per il Boeing 777-200 partito 41 minuti dopo la mezzanotte da Kuala Lumpur e atteso a Pechino per le 6.30 locali. È sparito dagli schermi radar della torre di controllo della capitale malese. Le sue tracce si sono perse a 2 ore dal decollo, mentre stava per entrare nello spazio aereo vietnamita. Il contatto con la torre di controllo dell'aeroporto dell'ex Saigon era previsto per le 17.22, poco più di un'ora prima dell'arrivo a destinazione. E pensare che io mi sto per comprare l'ultima meraviglia della gadgettistica elettronica, un attrezzetto che ti aiuta a ritrovare le chiavi di casa quando le perdi. È un attrezzino piccolo, lavora col Bluetooth. Lo attacchi all'oggetto che tu ti perdi e te lo fa ritrovare subito. Utilissimo per me, che devo sempre richiamare il mio telefono e non so dove metterlo. Oggi sembra che è impossibile si perda qualcosa. Ogni dispositivo è collegato comunque a una rete e ogni cosa è rintracciabile. Ogni nostro movimento è rintracciabile. Ogni nostro passo, ogni nostro sospiro, ogni nostra parola, ogni nostro spostamento. Ci muoviamo in una città, veniamo inquadrati da un'infinità di telecamere. Il nostro telefonino in realtà è il più implacabile tracciatore della nostra esistenza. Eppure, in questo momento preciso della nostra civilizzazione, in cui tutto sembra comunque geolocalizzabile, rintracciabile, il più complesso e il più raffinato strumento di tracciabilità di un percorso, che è un aereo di linea, che naturalmente ogni millimetro di spostamento deve essere comunque registrato da qualche parte, soprattutto un aereo passeggeri importante, perché per motivi di sicurezza è tutto tenuto sempre sotto controllo, il mondo ormai è tutto individuabile nello schermo del proprio tablet. Beh, è scomparso un aereo con 239 passeggeri, è scomparso la notte dell'8 marzo, ma all'inizio sembrava una notizia delle tante. Ci aspettavano da un momento all'altro di sapere che si è inabissato in qualche mare profondo, un incidente aereo, qualcosa di simile, un atterraggio d'emergenza. No, è proprio un mistero, è scomparso. Come in quei film di fantascienza, come in quei racconti dei programmi televisivi legati ai fenomeni paranormali, c'è il triangolo delle Bermuda, c'è un posto e un luogo in cui tutto ciò che ci passa sopra viene inghiottito, risucchiato. Esistono facezze innumerevoli su alcune nostre caratteristiche regionali. Se è passato lì sopra c'è il triangolo delle Bermuda, t'hanno risucchiato. Beh, quest'aereo è scomparso davvero. Grande imbarazzo del governo malese, ancor più dei cinesi. L'aereo partiva da Kuala Lumpur e doveva atterrare a Pechino. A un certo punto del percorso, dopo qualche ora, 7 ore dopo, improvvisamente si è infilato in una sorta di tunnel segreto, invisibile, e non se ne sa più niente. E nascono naturalmente le più fantasiose delle supposizioni. Vediamo le foto del pilota, che forse era un occulto sostenitore dell'opposizione malese. C'è una foto diventata virale che gira in tutto il web. Si vede lui nella sua cucina con in mano una sorta di mannaia. E non so bene, c'è una scodella di carne tritata. Questa foto va a pensare chissà quale sospetto di attività secondaria. Poi aveva litigato con il suo vice, non si parlavano più, chissà perché, mistero. E cominciano a infittirsi le ipotesi. Un atto terroristico più raffinato dell'attacco alle torti gemelle. Hanno fatto scomparire un aereo con un'infinità di passeggeri e chissà che fine farà. 239 passeggeri, ma nessuno rivendica. Oppure un incidente, è fuggito volontariamente al controllo dei radar, poi si è inabissato e cercheremo di capire dove, ma si può inabissare un aereo e nessuno lo trova? Oggi è tracciabile qualunque cosa, non esiste possibile in un aereo un bullone che renda rintracciabile quell'aereo, qualcosa comunque che sfugga al controllo di ogni terrorista, che comunque lo fa ritenere, ritrovare e rendere rintracciabile. Sembra impossibile, oggi sono tracciabili anche le banconote, il percorso può essere determinato di qualunque cosa, una cosa così è complessa, un aereo scompare, poi traffico di esseri umani. per trafficare in un botto 239 passeggeri bisogna fare tutto questo casino. Oppure l'aereo viene venduto al mercato clandestino degli aerei, ma un Boeing 777-200 al mercato clandestino, ma dove si compra? Chi lo vende? E chi lo compra cosa ci fa? Con che lo paga? E poi dei passeggeri cosa se ne fa? Beh, voi come la pensate? Ci sono di mezzo gli UFO? C'è di mezzo una sorta di intrigo internazionale? Un atto terroristico che non ci vogliono rivelare, quindi quest'aereo ci troviamo improvvisamente sopra la nostra testa? E i passeggeri che fine hanno fatto? Ma di 239 non avevano un telefonino? Non c'è uno che è riuscito a accendere un telefonino prima che di essere rapito, annientato, inabissato? Non c'è un segnale di nessuno di queste persone? 800240024, qualunque sia la vostra ipotesi, anche la più folle, questa mattina vorrei che voi la raccontaste. Perché? Perché tutto potrebbe aiutare. Non è stato terrorismo. Un primo punto nel mistero del volo della Malaysian Airlines, sparito con 239 persone a bordo, lo mette l'Interpol. Più abbiamo informazioni, più siamo portati a concludere che non si è trattato di terrorismo, dice il segretario generale Ronald Nobler, aggiungendo che la presenza a bordo di due persone con falsi passaporti europei fa pensare al traffico di esseri umani. Un equivoco. A Mairal era stato sottratto, rubato il passaporto, lui ha fatto regolare denuncia nell'agosto scorso, dopodiché nessun'altra notizia di questo documento, rinnovato il passaporto. Evidentemente qualcuno si è imbarcato con il nome appunto di Luigi Maraldi. I genitori stessi hanno tranquillizzato gli uomini del commissariato dicendo... Questo era il mistero del passeggero italiano. Noi ci interessiamo ai grandi disastri internazionali solo quando c'è un italiano di mezzo, ma non c'era un italiano a bordo, gli avevano rubato il passaporto, altro mistero. Già arrivano le prime deduzioni dei nostri ascoltatori, che prevedevo, conoscendoli come le mie tasche, che hanno chiamato all'800240024, mandato un sms. L'sms che mi è arrivato, il primo, è un Boeing con centinaia di persone, valigia a bordo, non sparisce in un colpo. O è entrato in un tunnel spazio-temporale o l'hanno vaporizzato con un'arma segreta. Paolo Nasetti, buongiorno. Buongiorno. Paolo Nasetti è responsabile operazioni di rotta dell'ENAV, Società Nazionale per l'Assistenza al Volo. In pratica gestisce l'operazione di controllo aereo su tutto il territorio nazionale. Vediamo se ci può aiutare. Naturalmente le ipotesi fantasiose ci piacciono, ma esiste una plausibile maniera per cui un aereo dopo 7 ore di volo scompare improvvisamente? Allora, per scomparire significa che non è più visibile sugli schermi radar. Noi abbiamo due tipi di sistemi radar che consentono la visualizzazione degli aeromobili: i radar primari e i radar secondari. I radar primari inviano nei 360 gradi un segnale che, come intercetta un ostacolo, ritorna verso la stazione e viene rappresentato sullo schermo radar. Al di fuori della copertura del radar primario esiste il radar secondario. Il radar secondario invece ha bisogno di un'interrogazione e di una risposta da bordo. Quindi, se l'aeromobile si trovava al di fuori di una portata di un radar primario e avesse spento il transponder di bordo, l'aeromobile può scomparire. Quindi ci vuole, diciamo, una grande esperienza del pilota ad infilarsi in una sorta di tunnel, almeno lo dico in maniera rozza, in cui i radar primari non lo prendono. Beh, diciamo che è sugli oceani, al di fuori di una portata di un radar posizionato su una costa, ipotizzando che esista un radar posizionato sulla costa, al di fuori delle circa 200 miglia dalla costa siamo oltre la copertura primaria e quindi all'interno di una copertura secondaria, se il transponder viene spento il velivolo non è più visibile. Ma io ho letto, ad esempio, se uno si avvicina alla Cina e si infila nel tunnel fuori dai radar primari, si alzano degli aerei caccia, ti affiancano e ti sparano addosso se immediatamente non dai segnali. Questa ipotesi non può essere nemmeno presa in considerazione, secondo lei? No, oddio, qui bisognerebbe vedere quelle che sono le norme che vengono applicate in Cina. Teoricamente un aeromobile che interessa lo spazio aereo italiano non autorizzato viene intercettato. È chiaro, quindi nessuno ha dato segnale di questo, o stanno zitti. Ma non esiste un sistema satellitare che dall'alto... la mia automobile, se me la rubano, viene geolocalizzata da un satellite. Io me lo leggo sullo smartphone dove me la stanno portando. Può essere che un aereo non è intercettato da un satellite? Allora, il discorso della copertura radar satellitare ai fini della gestione del traffico aereo è un qualcosa che è ancora in itinere. Per esempio noi ENAV nel 2013 siamo divenuti partner di un primo sistema satellitare globale per la gestione del traffico aereo e questo consentirà in un programma che prevede il coinvolgimento del provider canadese, dei provider irlandesi e danesi, uno studio per una implementazione che partirà dal 2015 per essere pienamente operativa nel 2018 che grazie a 66 satelliti orbitanti consentirà la visualizzazione di tutto il traffico aereo su tutto il globo. Al momento però, a lei per la sua esperienza, le sembra che ci sia qualcosa che internazionalmente ancora non viene riferito o trasmesso per motivi di riservatezza o esiste proprio questa sorta di buco nero nel nostro sistema di controllo mondiale per cui un aereo, se c'è qualcuno in gamba, sveglio, che conosce il suo mestiere, può farlo scomparire? Beh, consideri che se non c'è una copertura satellitare globale la percentuale di spazio aereo non coperta è molto elevata, siamo nell'ordine di quasi il 90%, quindi se è vero che i piloti o comunque chi dovesse aver dirottato l'aeromobile, ammesso che ci sia stato un dirottamento, conosca queste potenziali coperture dello spazio aereo, potrebbe muoversi di conseguenza. Ci chiama Gianni. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, certo, alcune domande le avete un po' bruciate voi stessi, perché io volevo fare proprio queste domande satellitari. Faccia le domande. Sì, io lavorando sugli aerei per 40 anni, ho lavorato sugli ATR di Alitalia, ho lavorato sui Boeing. È un pilota lei, quindi? No, è un motorista. È un motorista. Sì. Alcuni aerei, credo che il signore dell'ENAV mi potrà aggiornare di più. Non so se il 77 aveva il segnalatore quando c'è un ammaraggio oppure se cade, in poche parole, si attiva da solo. Molti aerei ce l'hanno, che non si disattiva, cioè il pilota non lo può disattivare, perché si attiva appena prendono terra o sbattono, o cadono in acqua e si attivano. Gli elicotteri ce l'hanno, perché io lavoravo con Augusta pure. Quindi io non lo so se il 777 ce l'aveva, è una, su quegli aerei non ho mai lavorato. Non so se Paolo Nasetti può risponderci, dice il nostro ascoltatore che ha lavorato per molti anni agli aerei, esiste un sistema di sicurezza che non è disinstallabile dal pilota, almeno attraverso le procedure consuete, poi si va giù con le pinze, stacca i fili, non lo so com'è possibile, io vedo molti film di fantascienza. Ecco, che comunque darebbe una segnalazione nel caso di impatto, di atterraggio forzato. Ma credo che il signore faccia riferimento al dispositivo ELTA, che è quello che praticamente consente di localizzare un relitto. Questo è utilizzato quando un aeromobile, un piccolo aereo viene a perdere contatto con i nostri servizi di informazioni volo, grazie all'ELTA è possibile rintracciarlo per i mezzi di soccorso, quindi credo faccia riferimento a questo. Ecco, ma se questo non è entrato in azione vuol dire che comunque non è ammarato, non si è distrutto, ecco. Ma teoricamente potrebbe anche essersi distrutto il dispositivo, questo non possiamo saperlo. Melog, cronache meridiane. Sabato, dopo una settimana di ricerche vane, il primo ministro della Malesia ha ammesso che il volo MH370 ha cambiato rotta per l'azione deliberata di qualcuno che era sull'aereo, rimasto in volo più di 7 ore dopo che si erano persi i contatti con la torre di controllo. Un dirottamento, quindi, ma resta il mistero su dove sia finito quell'aereo, precipitato oppure atterrato su qualche pista di fortuna. Resta da spiegare l'assenza di comunicazioni radio da parte dei piloti e tra i media cresce la sensazione che le autorità malesi stiano nascondendo qualcosa. Navi da aerei cinesi partecipano inoltre alle ricerche dell'aereo con quelle di Malesia, USA, Singapore, Vietnam, Nuova Zelanda, Indonesia, Australia e Thailandia. Intanto le autorità malesi hanno reso noto che i due passeggeri con documenti rubati erano iraniani, sottolineando di non aver trovato apparenti legami. Allora leggo qualche ipotesi degli ascoltatori. Nicoletta dice: sotto c'è qualcosa tipo Ustica, di 20 anni di depistaggio, quindi depistaggio. Poi l'aereo non è mai partito, secondo Patrizio. Un altro dice, scherzando, sarà stato David Copperfield, l'illusionista che fa scomparire gli aerei. Un altro dice, mi sembra fuori dubbio, trattasi di rapimento alieno. Un altro, può essere caduto solo in mare. Un altro, chiediamolo a qualche parlamentare grillino, sicuramente Casaleggio ci può spiegare tutto. La soluzione è molto semplice, i terroristi islamici lo stanno dirottando per farlo schiantare su un obiettivo cinese, i cinesi l'hanno abbattuto, questo lo dice Andrea. Poi c'è lo zampino della Spectre, naturalmente. È possibile, chiede un altro ascoltatore, che non sia stato un SMS dei passeggeri, allora hanno invaso con il gas tutto, tranne la cabina del pilota, magari serviva alla Corea. Un altro chiede perché non viene montato su tutti gli aerei passeggeri un sistema GPS non accessibile neanche ai piloti. Pure saranno stati catturati dai rettiliani, i quali, scontenti dei mancati accordi patteggiati con la CIA, li useranno per ricattare il Pentagono e il mondo. Queste sono le ipotesi, ho chiesto ipotesi fantasiose, l'hanno dette tutte, ma d'altronde la realtà non è che sia così lontana da tutti gli scenari più fantasiosi. Sembra quei film, i disaster movie, dedicati appunto a qualcosa che è al di fuori delle nostre capacità di concepirlo. Angelo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Niente, io veramente non sono un tecnico, però mi sono appassionato a questo, diciamo, giallo, e mi chiedevo perché proprio questo volo. Allora, io mi sono fatto un'idea. L'idea mia è questa, che nel volo, sul volo, questo volo, diciamo, incredibile, c'erano 20 tecnici informatici, tutti insieme sullo stesso volo, appartenenti a 5 team di una società che studia come eludere i servizi segreti nelle comunicazioni. Ma questa è una sua ipotesi o ha qualche... No, l'ho letto sui giornali. Ah, c'erano 20 tecnici informatici? 20 tecnici super specializzati. E sai, tutti insieme in un aereo mi puzza un po', nel senso che poteva capitare un tecnico. E vabbè, ma 20 tecnici su un volo. Quindi è una sorta, diciamo, di rapimento di cervelli, erano quelli che avevano in mano. Esatto, esatto. Questa è l'ipotesi, questa è la cosa interessante. Praticamente 5, ho letto su un giornale, ora non mi ricordo qual era il quotidiano, che erano praticamente 5 team su uno stesso aereo che praticamente erano in volo per quindi potrebbe averli rapiti la Cina, ecco. Ma fa scoprire in aereo. Non lo so ora, Vabbè, ma fa prima a prenderli quando atterrano all'aeroporto, non è che... Certamente facevano gola... Non riusciamo a riprenderci due marò in India, figuriamoci 50 tecnici in Cina, ma chi li riprenderebbe mai più? Lo so, però il tizio che aveva il comandante praticamente si era un po' allenato in casa, perché c'aveva anche un simulatore di volo. Non penso che tutti i comandanti... Ma quello magari giocava con la PlayStation. Un giocattolino del genere, Vabbè, questo è vero, però c'aveva un simulatore di volo, quindi si stava allenando. Che il comandante abbia una parte attiva in questo è fuori discussione, perché se non era lui, doveva essere qualcuno che prendeva il suo posto. Antonio. Sì, buongiorno. Il suo buongiorno. Punto di vista. No, io, ma il mio punto di vista è molto semplice. Io credo che si stia tentando di insabbiare la cosa, per un motivo molto semplice, perché ho letto da più parti che da dopo l'11 settembre tutti gli aerei che sono in volo sono controllati, quindi quando un aereo esce fuori rotta per paura di attentati, secondo me o è stato abbattuto, quindi i militari ne sapranno sicuramente di più, perché non può scomparire un aereo così all'improvviso, soprattutto quindi, dopo l'11 settembre. Quindi sono cambiati dei protocolli di sicurezza dopo l'11 settembre, quando un aereo dà segnali strani, secondo lei, adesso chiederemo conferma al nostro esperto, viene abbattuto. Andrea. Salve, io chiamavo per il fatto che sicuramente io non so dirvi perché quell'aereo è sparito. Se lo sapesse oggi era l'eroe nazionale, infatti, figuriamoci. Il fatto però è che gli Stati Uniti, da quando hanno ceduto a Google il sistema di satelliti di rilevazione Keol, ne hanno uno molto più avanzato che si occupa di rilevare qualsiasi traccia termica se lo vogliono. Di conseguenza hanno tracciato quello come qualsiasi altro velivolo. Ma mi spieghi bene questa cosa, che non lo so, mi dà un'informazione. In pratica, quando sulla pagina di Google lei cerca una mappa o vuole vedere una via, utilizza il sistema di satelliti che Google ha acquistato anni addietro. Sì. Questo era nient'altro che il vecchio sistema di satelliti che usavano gli Stati Uniti negli anni 80. Per sorvegliare esatto. Le persone. Quindi ne hanno uno, ipoteticamente, di almeno 1000 volte la potenza di quello precedente. Quindi possono tracciare quello che vogliono dove vogliono, in quanto le geostrizioni non rispettano lo spazio. Ma secondo lei si registrano tutto? Cioè dovrebbe avere la registrazione quelle 5 ore di quello spazio? Certo. Quello che l'ENAC vorrebbe ottenere con il suo sistema satellitare, gli Stati Uniti lo hanno da decenni. Lei cosa fa nella vita, per sapere come fa a essere così informato? Sono un responsabile appunto IT, mi occupo di sistemi informatizzati. Quindi lo dice in piena cognizione della sua professione. Io dico di quello che posso dire, che tecnologicamente è fattibile da... Cioè, secondo lei Google, se volesse, potrebbe dirci... No. Google ha comprato il vecchio sistema degli Stati Uniti. Ah, quello ovviamente. Nuovo, più raffinato. Quello nuovo è ovviamente della difesa degli Stati Uniti. E traccia anche le scie termiche. Sì, è una cosa molto comune che fanno i satelliti. Per esempio, le masse nuvolose vengono rilevate con gli infrarossi da quelli meteorologici. Lei dice una cosa molto interessante. Sentiamo Paolo Nasetti, responsabile operazioni di rotta dell'ENAV, Società Nazionale Assistenza al Volo. Ha sentito il livello di competenza dei nostri ascoltatori. Lei può dirci qualcosa in più rispetto a questa ultima telefonata? No, io posso solo dire che va differenziata la posizione dell'aeromobile se sta sorvolando una terra emersa o se ci troviamo a largo nell'oceano, no? E ovviamente questo programma, la Irion, che annunciavo precedentemente, per il quale ENAV è partner, consente proprio di sviluppare un sistema per la gestione del traffico aereo che consenta la copertura di tutto il globo. Attualmente non è così. Poi un discorso diverso, se entriamo nel merito dei sistemi di difesa, allora quello è un qualcosa che non è disponibile ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo, quindi entriamo in un campo che non ci appartiene. Diciamo l'operazione, l'intelligence probabilmente già lo sa, ma ancora non lo sappiamo, se ammesso che questo dia dei risultati. Senta, ma la cosiddetta scatola nera, non dà segnali al momento, se uno non la prende fisicamente, di un aereo? È corretto. Quindi la scatola nera non serve a nulla, bisogna prendere il relitto, andarla a prendere e racconterebbe tutto, ma finché è, diciamo, ancora irrintracciabile, non dà nessun tipo di segnale. Un'altra cosa, molti mi chiedono sempre questa cosa legata ai telefonini, dicono un telefonino in realtà tutti sanno che è capace di intercettare anche se è spento, tutti lo sanno, può essere attivato, uno può spegnere il telefono, ma se non toglie le batterie il telefono è comunque sempre attivabile, comunque su richiesta naturalmente di un magistrato, di chi per lui, è attivabile. Possibile che nessuno ha pensato di fare una ricerca sui cellulari delle persone a bordo, che sono tante, ammesso ci fosse un terrorista, prima che se li fa consegnare tutti, probabilmente qualcosa rimane tracciato, oppure no? Oddio, questo è possibile, però bisognerebbe trovare i cellulari delle persone che sono a bordo. Beh, avendoci i numeri. Sì, se fossero spenti, ma non, sinceramente mi fa una domanda che esula dalle mie competenze. Sì, lo metto come ipotesi, molti me lo chiedono, molti sono legati a questa incubo della tracciabilità del cellulare, ma per quello che riguarda tutti gli aspetti legati al traffico aereo è stato più che esauriente, la ringraziamo Paolo Nasetti. A domani.